sun's gone, when in bed I slumber, I hear the rhythms of the music, I buy the product and never use it, I hear the talking of the DJ, can't understand just what does he say, I'm on a Mexican radio, I'm on a Mexican about the U.S. inflation, I understand just a little. No comprende, it's a riddle. I'm on a Mexican radio. I'm on a Mexican, whoa, radio. I'm on a Mexican radio. I'm on a Mexican, whoa. con la loro Mexican Radio, le 12:06, è arrivata proprio al pelo quest'oggi. Uno entra in radio, posa la borsa, si mette le cuffie e inizia a parlare. E sono sempre bei momenti. Ringrazio ovviamente Marco Gravelli che come al solito vi ha tenuto compagnia dalle 9 a mezzogiorno. Adesso invece insieme a Claudia fino alle 14 i nostri contatti sono quelli soliti 335-100-7777 claudia@rockfamily.it. Ovviamente un grandissimo saluto alla famiglia sempre presente online, sempre belli, eh? Un bacione grande. Oggi è il 22 maggio, mamma mia, sta per concludersi così la penultima settimana di Rock FM. Ovviamente però la settimana con la prossima sarà molto bella, un sacco di ospiti, un sacco di personaggi che torneranno a trovarci. In realtà la cosa buffa è che questa settimana, quella che sta per arrivare, sarà molto divertente da una parte, nel senso che si farà casino con le band, con i nostri ospiti. Il problema è che finita la settimana, è dura, nel senso che lì una volta finita la settimana finisce tutto, ecco. Quindi bei momenti ma anche un po' tristi se vogliamo. Ora vi lascio con Sergio Tanchi con questa Sky is Over. The cradle of the sun, living in remorse, sky is over. Don't you want to hold me, baby? Disappointed, going crazy, even though we can't afford the sky. album molto bello, il primo di Serge Tankian con Skies Over. Spesso e volentieri ne abbiamo parlato di questo Elected Dead, abbastanza difficile anche da pronunciare. Poi piove, sapete benissimo che quando piove per me è assolutamente un disastro. Stavo dicendo, quest'album è molto bello, anche se spesso e volentieri parlando ne abbiamo detto un po' troppo System of a Down. Però lui ha fatto parte di System of a Down, lui era uno dei System of a Down, adesso esattamente non sappiamo, anche perché lui è molto diplomatico. Se tu chiedi a Serge Tankian, dai Serge, ma dimmi la verità, ma qui System? E lui ti dice esattamente le stesse dichiarazioni che ci sono in giro. Guarda, per il momento siamo in pausa, virgola, non è da escludere un album in futuro, virgola, comunque è tutto a posto, non preoccupatevi, punto. Queste sono un po' le dichiarazioni un po' studiate, secondo me, però lui grandissimo personaggio, grandissimo concerto. Serge Tankian torna in Europa durante il periodo estivo, ovviamente per quanto riguarda i diversi festival. Per il momento in Italia non c'è ancora nessuna data. Chissà, speriamo. Intanto continuiamo con gli Atreyu, ritroviamo il loro ultimo album. Non è piaciuto tantissimo ai fan perché è un po' troppo tranquillo. Atreyu, questa Honor. I don't sapete, i Cure ai tempi sono partiti con il loro sound, quello bello cupo, quello bello triste. A un certo punto il manager della band e anche la casa discografica hanno detto: ragazzi, siete veramente bravissimi, però magari ogni tanto fate anche qualche canzoncina allegra, che se no. E allora Robert Smith e soci, che sono assolutamente dei geni e che comunque sono dei signori superiori a qualsiasi cosa, hanno detto: volete una canzoncina allegra? Ma ve la scriviamo in 2 secondi. E così non solo Friday I'm in Love, ma nel corso della carriera poi ne hanno fatte diverse di canzoni così allegre. Beh, dai, definiamole allegre. Saluto, un bacione grande a Vera e Giulia da Genova. Dice: oggi niente capo, quindi riusciamo ad ascoltarti, ma quando scendi un po' a Chiavari, guarda, adesso avrò, tra pochissimo avrò tutto il tempo per scendere a Chiavari per farmi delle lunghe giornate al mare. Ma ovviamente dipende anche dal tempo, perché mannaggia, fino a quando piove. A parte che il mare è bello sempre e comunque, anche con la pioggia, anche d'inverno, anche d'autunno, è sempre bello. Vediamo, vediamo, se ne sta parlando ovviamente perché vado a scrocco dal DJ Edo, quindi tra poco ci sarà questo bel weekend al mare. Saluto anche chi mi dice che vocina oggi. Eh sì, oggi c'è un po' di stanchezza, in effetti sì. Dice: ma fatevi comprare da Lars il nano pelato però danese. Quando infatti ho letto nano pelato ho detto: ma quale? Quello danese. E dice: almeno gli si perdona Napster. Beh, potremmo contattarlo, perché no, ormai. Saluto anche, a proposito di uomini, ieri devo dire che il sito di Rock Family dà una certa dipendenza, nel senso, una volta che tu cominci a postare sul forum o nella urlo box, basta, è fatta, non ti stacchi più. E quindi ieri in diversi assistevano così alle mie diverse figure, a diverse vicende. Saluto anche quindi Male Bolgia, e dopo, guarda, la figuraccia con lo svedese, sono scappata. Scusate, adesso questa cosa la capirete in pochi, però ieri come al solito ho fatto una figuraccia tremenda, ma non la voglio nemmeno riportare, ecco. Saluto anche Toki, ci manda una bellissima poesia, grazie mille, grazie, grazie, grazie, grazie, che carini. Saluto anche Fefo, no, purtroppo non sono ancora riuscita a parlare con i miei colleghi per eventuali trasferte, ma la vedo molto grigia. E se tu provi a fare quello che hai scritto nel tuo messaggio, giuro che ti picchio e ti faccio male. Intanto i Turbo Negro, do you dig destruction? Oh, proposito di interviste molto strane, beh, quella con i Turbo Negro è storica. Sono stati ospiti del DJ Edo e sono matti, ma nel senso buono, anche un po' nell'altro senso. Però sono dei pazzi, ma pazzi veri. Ma loro sono belli così e poi dal vivo sono assolutamente eccezionali. Turbo Negro con Do You Dig Destruction. Ricordo ancora una volta questa scena, era un festival a Bologna, se non sbaglio l'Independent. Un festival comunque a Bologna, e c'era un caldo mostruoso, un sole che picchiava come cioè una roba micidiale. Il cantante di Turbo Negro era seduto sotto il sole con questo pellicciotto sintetico e ovviamente la gente che lo guardava diceva: ma questo tra poco muore, non è possibile che uno possa resistere così tanto sotto il sole tipo mezzogiorno con questo pellicciotto sintetico. E in effetti la frase che il cantante appunto dei Turbo Negro ripeteva più spesso era: ma non sto molto bene. E noi cercavamo di fargli capire che era per quello, ma non c'è stato verso. Allora ha preso questo mega sacchetto di ghiaccio e se lo abbracciava, però non ha voluto togliere il pellicciotto, è rimasto così sotto il sole per non so quante ore. Beh, ma loro sono così, sono degli artisti molto particolari, ma belli per questo. Ora vi lascio con i Cult, questo nuovo singolo, Born Into This. Yeah. FM. Can take her anywhere. Do whatever comes naturally to you. You know she just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you eventually. To be a hummingbird, whisper words in her ear. Oh, now you know I just don't care. You know she just don't care. Because I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you eventually. I always think that I know how to be